Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pardo, ti faccio subito una domanda. Dica. Indovini, indovinello, qual è la specialità più o meno olimpica nella quale noi italiani siamo imbattibili e imbattuti, incontrastati campioni? La scherma. No, non è neanche il nascondino. Qual è? Il salto della... non è la quaglia. Della barricata, della quaglia. No, non è della quaglia. Il salto della legge. Incontrastati campioni. Trovare alternativa alle norme, manipolarle. Anche sulla quaglia non siamo messi male, no, però. Secondo me siamo abbastanza bene. No, anche un certo gusto saltare la quaglia. 800240024, Franco Piantini, autore di questo programma, Capitan Fabio Cantadoni in regia e Beretta, presidente della Lega, che questa mattina ha detto... la Lega di Serie A ha spedito formalmente alla Federcalcio una lettera per modificare la norma sulla discriminazione territoriale. Eccola. Quello che è in discussione è un nuovo sistema di sanzioni che rischia di consegnare le chiavi degli stadi e la regolarità e l'equilibrio del campionato in mano a piccole minoranze di esagitati. Questo non è accettabile, non è l'obiettivo e rischia di ledere i diritti di decine e decine di migliaia di tifosi per bene che non possono vedersi gli stadi chiusi per la responsabilità, ripeto, di pochi irresponsabili. So, Pierluigi, che oggi volevi parlare di 4-4-2, modulo della nazionale, eccetera, eccetera. Anch'io, dura, durissimo. Però no, ti dico che mi trovo abbastanza in imbarazzo a essere governativo, no? Nel senso che però qui c'è poco da discutere, secondo me. Cioè, sì. È abbastanza evidente che è evidentissimo quello che stava succedendo. E cioè che di fronte a un problema che è un problema enorme che c'è nel mondo, che è quello del razzismo, della discriminazione, poi anche lì possiamo vedere mille aspetti e mille elementi di che cos'è discriminazione, di che cosa è semplice sfottò, però insomma si stava creando una qualcosa di obbrobrioso che di fatto dava a 20 persone, non accetto il discorso, non, l'identità, non sono soltanto ultra, non sono soltanto curve, ma dà di fatto a un gruppo di persone, una minoranza infima di persone, la possibilità di chiudere lo stadio alla maggioranza di chi invece si comporta bene. Quindi il tifoso è il tifoso per bene è il primo che questa situazione qui la subisce, poi sì. Ovviamente le società che sono sottoposte al ricatto. Quindi io dico consegna una pistola carica in mano agli ultra, giusto per andare giù dritti. No, assolutamente, eh? Assolutamente, tanto per essere diciamo un po' tarantiniani, però insomma è così. Quindi per quanto non mi piaccia la specialità del salto della legge o dell'eccezione o del fatto che poi alla fine bisogna trovare sempre in Italia un modo per sistemare le cose, qui forse è una delle volte nelle quali sono più d'accordo in assoluto. Sì, gioco forza, non di principio ma gioco forza. Intanto Leonardo su Twitter scrive che rischiamo la squalifica dello studio con tutta questa verve, Tosel vi ascolta, ma sentirai dopo Leonardo, sentirai cosa diremo. Intanto 800240024, perché qui dovete parlare anche voi, dico subito che invece su questo argomento, e chiudo il mio Vangelo, è scritto sul Corriere della Sera, pagina 49, Giorgio Teruzzi, Diego Batantuono, il tifo ironico è intelligente come alternativa a quello becero. Questo è il mio pensiero e ovviamente poi ne parliamo. Però vorrei tornare al Vangelo secondo lo Tito dopo il comizio a Radio 24 di ieri del Presidente della Lazio. Allora, oggi vi leggerò qualche brano tratto dal Vangelo secondo me. Il problema qual è? Che questo crea, diventa, fa sì che le squadre diventino ostaggio delle società. Perché le faccio l'esempio pratico. Se una tifoseria, tra virgolette, o un gruppo di tifosi, vuole fare in maniera di impedire alla gente di andare allo stadio, e basta che fa 50 gol ed è finita la pratica. Chiaramente che la norma non va applicata così che semplice come è stata impostata, perché crea solo danni, anzi invece diventa un boomerang invece che un vantaggio. Ma dicevo, la portata significa che se un settore, giustamente, di migliaia di persone assume un comportamento di un certo tipo, è giusto che vada censurato. Ma se 30 persone non sono, rappresentano la tifoseria, è delirante, perché ancora si consente a questa gente di poter svolgere questo ruolo. Qui io ho detto anche in un'intervista ultima, qui non c'è una categoria professionale di tifosi, né c'è sulla carta d'identità professione tifoso. L'ho detto, tifoso delinquente o delinquente tifoso. Parliamo di delinquenti tifosi. Questa gente si ritrova nei cortei che vengono fatti degli anti-DAP, degli anticontestatori della scuola. Sono sempre le stesse persone, passano dallo stadio alla strada e quindi non ha nulla a che vedere con te. Siamo una delle federazioni più importanti della UEFA. Abbiamo un rappresentante con il ruolo di vicepresidente, che è nella persona di Giancarlo Abete. Bisogna che Platini capisca queste situazioni, perché non è che è diventato il Vangelo Platini, no. Perché Platini è il Vangelo, esiste solo il nostro Signore Gesù Cristo. Bisogna tagliarlo alle condizioni specifiche. Questa cosa del traffico mi esalta, lo sai, Nogaro le Rocca, l'ho sentita tante volte da ascoltatore, mi gasa tantissimo. Tutti convocati. Allora io abbraccio idealmente, oltre che Pierluigi Pardo come tutti i giorni, Davide, che scrive via sms: il tifo non deve essere organizzato ma deve essere spontaneo e appassionato. Guarda un po', Pier. Sì, beh, quello che è successo poi soprattutto negli ultimi anni in Inghilterra. Sì. Quello che è avvenuto al di là di una certa repressione che è stata fatta di militarizzazione degli stadi dopo le tragedie della Iselle e di Hillsborough è stato proprio questo, insomma. Ci sono pro e contro. Il contro principale dello stadio inglese è che non è uno stadio per tutti, perché i prezzi sono molto alti e quindi non si favorisce, diciamo, l'arrivo delle classi più popolari allo stadio. Il pro può essere che sicuramente, insomma, il singolo tifoso in quello stadio lì è riconoscibile, e quindi chiaramente se sbaglia paga e mediamente si comportano tutti un po' meglio. Sì. Poi magari non è il massimo dell'ambiente, esatto. Ma io credo che, insomma, non rinuncerei all'idea di avere uno stadio molto caldo, molto colorato, e la colpevolizzazione al 100% delle curve non mi ha mai convinto. Però è chiaro che qui stiamo assistendo a qualcosa di potenzialmente molto grave, perché gli striscioni dei giorni scorsi sono di fatto la formulazione di un possibile ricatto nei confronti della società. Ma il vero problema è quello. Allora, io dicevo prima che non accetto su questo argomento piuttosto palloso altro Vangelo che non sia quello scritto oggi su Corriere della Sera a quattro mani da Diego Battantuono e Giorgio Terruzzi, con cui ho il piacere e l'onore spesso di parlare di Formula 1, essendo una delle voci più autorevoli. Giorgio Terruzzi, allora io adesso, tifando contro la Ferrari ad Alonso, dico asturiani tutti nani, così mi chiudono la radio. Non credo che chiudano la radio, ma proviamoci. Tosel, sei in ascolto, chiudimi la radio. Asturiani tutti nani. Ciao Giorgio, ma la discriminazione è verso le Asturie o verso i nani? No, andrebbe capito. Indifferente. Giorgio, doppia discriminazione. Doppia. In caso di suocera che scassa dalla mattina alla sera, la si può portare in mezzo agli ultra dopo averle regalato una sciarpetta con i colori della squadra ospite. Tempo 7 minuti e me la ricoverano in prognosi riservata. In compenso, da oggi, chi avesse voglia di far chiudere uno stadio può rimettere in prova i vecchi striscioni tipo Giulietta è una zoccola, dei tifosi del Napoli in direzione Verona, solo prosciutto, avete solo il prosciutto, direzione Parma, siete più brutti della multipla, direzione Juve. Geniale questo. Sì. Da qui si evince che un centinaio di idioti detengono ormai un potere assoluto. E il punto è in queste ultime 12 parole. Sì. No, ma mi dispiace moltissimo per parlare di questi qui, perché gli si dà importanza un'altra volta. Cioè, il problema è sempre quello lì. Secondo me, io non sono tanto d'accordo con Pardo, cioè a me degli stadi caldi, se per il caso dobbiamo immettere negli stadi 100 delinquenti che sono tollerati, coccolati, perché qui il problema è un po' questo, cioè, mi par di capire, lo dico e mi scuso perché io di calcio non so tanto, però di questo tema qui me ne sono occupato un po' di anni fa. Cioè, se le società non cambiano registro sul rapporto con questi qui fanno quello che vogliono, ricattano, cioè, stiamo parlando di una minoranza rumorosa, molto rumorosa purtroppo, che determina sto tutto al centro della scena, ed è un po' questo il punto, è un po' depressivo secondo me. Ma io posso precisare che io sono assolutamente d'accordo su questo. Il problema è il rapporto malato che si instaura, cioè secondo me il problema non è in assoluto nella curva o nell'idea che ci possa essere un'organizzazione del tifo. Secondo me non è necessariamente un qualcosa che porta problemi questo. Il problema è che, come dice giustamente Giorgio, poi ci possono essere delle situazioni nelle quali il rapporto con le società diventa malato, ecco. Quindi questo è assolutamente l'elemento fondamentale. Sì, però io dico, dato che c'è Pardo che mi protegge anche fisicamente, io invece dico che sono a discapito della mia incolumità fisica e mentale, sono invece per il tifo disorganizzato, come scriveva prima Davide. Non sopporto le curve, i comando, le falangi, i corps. Io per legge, potendo, vieterei queste cose, insieme alle carovane speciali verso le trasferte, al fatto che si debba rimanere intruppati ed essere scortati, l'altoparlante che dice invito settore ospite a rimanere dentro lo stadio fino al totale svuotamento dello stadio. Io non sopporto più queste cose, anche perché, come ho detto ieri, queste sono associazioni non riconosciute a scopo di lucro. Quando non associazione a delinquere. Ma certo. Cioè, guarda, a me personalmente, se la curva di questi qui non è chiusa, a me non me ne frega niente. Secondo me è un problema anche di abituarsi un po' a ragionare a fronte di una realtà, no? Perché poi, al netto di quella ultima questione, a parte il fatto che se tu dici, va bene, adesso è così, allora vai avanti così, ricattano, va bene, ricatteranno e stanno chiusi gli stadi lo stesso. Quindi fa niente, dopo un po' la gente si stancherà di ricattare. Il problema è che il rapporto con io le volte che mi sono occupato, me ne sono occupato una volta soltanto, dire la verità, un po' di anni fa, però ho fatto un bel tour di ultra, cioè sono persone che hanno dei problemi abbastanza seri molto spesso, no? Che scaricano lì. Allora, se questo tipo di rapporto non cambia alla radice, perché poi alla fine della fiera vedi i capi ultra che poi bazzicano le dirigenze, che stanno lì, che il ricatto è già presente, secondo me, non è che nasce oggi con questa storia qua. Allora, siccome se è già presente, io ho la sensazione che lo sia, allora o lo spezzi sta catena, se no possiamo stare qui a discutere di questo provvedimento, a scherzarci su, però insomma la sostanza non cambia, no? Ci sarà, poi passerà come l'onda anche questa roba, sì, qui, sicuro. Ma la realtà resta quella. Sicuro. Pierluigi, frequentando gli stadi sai benissimo che anche noi giornalisti molto spesso siamo, non ti dico vessati, però qualche volta minacciati, qualche volta rimproverati. Beh, capita, ci sono stati dei casi, sì, a me personalmente no, però chiaramente è successo nel passato, soprattutto magari questa è una fattispecie che può riguardare di più chi segue stabilmente una squadra, uh-huh. E quindi ha una frequentazione quotidiana con la squadra e anche con la tifoseria. Ci sono stati episodi inquietanti nel passato, assolutamente, quindi il discorso è assolutamente giusto, legittimo. No, fra l'altro, a proposito di limitazioni della libertà, ecco, questo è un elemento secondo me che vale in assoluto per tutti, perché Giorgio faceva riferimento al fatto che poi comunque andare allo stadio significa avere una continua vessazione della propria libertà, al di là del livello vergognoso di molti stadi italiani, ma il concetto appunto dell'ordine pubblico che ti porta a dover rimanere due ore fuori da un settore ospiti per vedere una partita, l'attenzione massima che si deve avere in determinate situazioni, cioè, tutto questo non è normale, è patologico, è assolutamente patologico, e alla fine la parte lesa di tutto questo ragionamento è invece chi ha una sana passione per questo gioco e vuole semplicemente viverlo nel luogo dove questo gioco va vissuto, insomma, perché non c'è alcun dubbio, qualsiasi persona, anche chi fa televisione, ti dirà sempre, perché lo pensa, che lo stadio pieno è la cosa migliore. Quindi è una grandissima balla il fatto di pensare che poi ci sia qualcuno che vuole gli stadi vuoti, non li vuole nessuno, anche dal punto di vista strettamente televisivo. Una partita in uno stadio vuoto è una partita che vendi molto peggio, una partita che non ha calore, che sicuramente appassiona meno di una partita, e ci sono dati che lo dimostrano, di una partita in un tutto esaurito. Quindi bisogna assolutamente ritrovare un equilibrio, e l'unico modo per ritrovarlo è sulla civiltà. Non ci sono molte alternative. No, ma poi televisivamente mi insegni che comunque la cornice è importante. Ma tutta la vita. Anche televisivamente possiamo dire, io dalla radio, tu dalla radio e dalla TV, insomma, il calcio va visto, o lo sport va visto allo stadio. Il calcio visto allo stadio è un'altra cosa. Sì, ma anche perché scusa, faccio un discorso statistico e quindi proprio facciamo il picco negativo d'ascolto. Però la differenza fra uno stadio pieno e uno stadio vuoto è 40-50 mila persone. 60.000 persone, il pubblico televisivo è completamente su numeri diversi, no? Le pay TV fanno una partita importante, fanno anche 3-4 milioni di persone, quindi stiamo parlando proprio anche dal punto di vista numerico di una pagliuzza che però toglie alla partita sicuramente un elemento straordinario di fascino, di coreografia, di spettacolo appunto, quindi assolutamente, oltre al fatto che insomma anche per noi che facciamo questo lavoro è chiaramente un'altra cosa, raccontare una partita a porte chiuse, a me è successo l'anno scorso, mamma mia, in occasione di Lazio-Fenerbahce, c'è una un obbrobrio, cioè proprio è contro natura, è una cosa perversa, contro natura. Il calcio senza tifosi muore, ecco, c'è questa lo sport senza tifosi muore. Pier, stai lì ancora un attimo, voglio salutare Giorgio Terruzzi provando a farmi far chiudere l'autonomo di Singapore. Giorgio, io tifo dichiaratamente Valentino Rossi, allora dico, noi non siamo tutti spagnoli, così Singapore è chiuso, domenica si corre senza pueblo. Sì, però sono tutti spagnoli, il problema è questo, noi non siamo tutti spagnolissimi, c'è quel problema lì. Senti, ma vince Marquez? Sì. Molto probabile, nel senso che questo ragazzo non è solo uno che va forte, è uno che mi pare ha in mano le sue leve, cioè, comprese quelle mentali, per cui un po' tutti temevamo che facesse una qualche vaccata, o qualche si mettesse a repentaglio da solo, ma insomma è sempre, mi sembra molto padrone di tutto, quindi sì, io facevo il tifo per Pedrosa per tutelare le minoranze, povera. No, mi sa che no. Tutelare le minoranze non è male. Le minoranze, cioè, appartiene alla minoranza dei perdentoni, cioè di quelli che non vincono mai neanche se corrono da soli, perché piuttosto buccano. Giorgio, grazie, è sempre un piacere. Buon lavoro a voi. Ciao, Giorgio. Ciao. Invece, io oggi devo salutare Pierluigi Pardo con un domandone: ma chi è Rami? Beh, Rami è un buon difensore ed è forse una mossa che andava fatta non adesso. Pare che il Milan sia molto interessato, la Roma ovviamente conoscendolo bene Garcia ha provato praticamente fino all'ultimo, adesso sembra insomma che tutto sia praticamente fatto. Rami è un giocatore che poteva essere molto molto utile al Milan in questa prima parte della stagione, insomma è un francese, ha una forza fisica molto importante, è in questo momento tecnicamente fuori cosa con il Valencia e credo che sia, non so se è l'uomo giusto, insomma non bisogna aspettarsi Thiago Silva, ma certamente è un giocatore che in questo momento al Milan serve come il pane. Ci vediamo domani? Sì, ci vediamo quando vuoi, ci vediamo, siamo qui. Tutti i giorni. Vabbè, allora ci vediamo tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera. E sera, bravo. Ciao Pier, grazie. Ciao. Tutti convocati. Milan, e basta con sta mina, ci ha rotto la minchia. State attenti, fratellastri, che state giulando l'undicesimo comandamento della Pippia. Dedica la domenica in Milan. Attenti che è finita all'inferno, in mezzo ai diavoletti, state attenti. Milan, c'è squadra grande, squadra mia. La domenica mi tiene compagnia. Si sfocco della che fai, babbo? Mettimi addosso. Disgraziati, io fatico come un animale tutta la settimana. La domenica voglio dormirsi, capito o no? Squadra grande! Squadra grande! Cioè, ma ditemi voi come fa uno con questo accento a tifare per il Milan? Ditemelo voi, 800240024, non condivido, ovviamente va tantuono questo, e ovviamente il finale avete riconosciuto tutti, perché fa parte della nostra storia e della nostra cultura, molto complessa, molto interessante anche. Non condivido il discorso di Mattias su Twitter, dai ragazzi quanta demagogia, in una curva ci sono 10.000 persone, non fate sempre di tutta l'erba un fascio, a parte il fatto che tutta l'erba un fascio è un modo di dire molto banale, però faremo della demagogia, ci saranno 10.000 persone, però sono tutte lì a pendere dalle labbra e non facciamo finta di niente di quei 20 che sono sulla balaustra, che non guardano la partita ma stanno spalle alla partita e indirizzano i cori, e a cantare quello che quei signori gli dicono. Normalmente si tratta di persone che con le società, parlo di quei 10 lungo la balaustra spalle alla partita, che con le società fanno affari anche economici. Quindi non vogliamo fare di tutta l'erba un fascio? Bene, allora io vi dico, voi siete in 10.000 in curva, c'è un coro che non vi piace, non suona bene, io voglio vedere, ma tanto non lo vedrò, qualcuno che si dissocia, magari andando via, magari isolando quelli che fanno un coro che non va bene, che non piace, che non suona bene. Enrico Verona, buongiorno. Ciao. Ciao. Spero di essere sufficientemente ascoltabile perché sono in macchina. Sì. Niente, è solo un brevissimo racconto di un aneddoto per dire quanto tante di queste regole siano abbastanza inutili e forse anche stupide. Io ho tre figli, due miei e uno della mia compagna. Sì. In due occasioni, una volta ha preso, la mia compagna si è portata allo stadio il più grandicello, il mezzano, che ha 15 anni, e un altro di 12. Hanno perquisito perfettamente quello di 15 anni, ma quello di 12 no, perché è piccolo. Quindi io avrei potuto portare dentro tutto quel che volevo. Sì, vabbè, lascia stare, ok. Sì. Seconda volta, peggio. Allora, io abito a Verona con la mia compagna e con suo figlio. Lei prende l'altro mio figlio, quello più grande, anni 16, e porta il mezzano e il grande allo stadio. Stanno facendo i biglietti e vengono, naturalmente il mezzano ha la sua bella felpa dal Chievo gialla-blu, vengono spediti nella curva dell'Atalanta, questa è della settimana scorsa, perché mio figlio abita a Brescia. E così sono andati a vedersi la curva. Chiaro esempio di discriminazione territoriale. Ora, questo, mi è piaciuto questo racconto di sport familiare. Chiaro esempio di discriminazione territoriale questo, perché se uno abita a Verona, abita a Brescia, non è accettabile che vada a vedere la partita nella curva del Chievo. Insomma, mi sembrano tutte follie, a parte il fatto che, cioè, voi sapete che c'è una frase che mi manda in bestia, che è quella: devono tornare le famiglie allo stadio. Sapete, questa mi fa venire il sangue agli occhi. Quando andavano le famiglie allo stadio? Ma quando? Ma ditemelo voi. Questa ve la ricordate, no? Questi sono i tifosi del Verona, a dimostrazione del fatto che Terruzzi e Abatantuono hanno ragione da vendere. Il tifo ironico e intelligente come alternativa a quello becero si può, non è vero che non si può. 800 24 0024. Marco, provincia di Pesaro. Sì, buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Tre cose velocissime. Allora, la prima, gli ultra gli diamo delle pene circa, per dire, 6 mesi servizi sociali, così puliamo i fossi da tutta l'immondizia che abbiamo in Italia, le bottigliette di plastica, le robe di vetro, così questo immondiziaio a cielo aperto viene ripulito e possiamo cominciare con la rivoluzione culturale. Dagli ultra, seconda, viene ripulito dagli ultra che beccano 6 mesi, in conseguenza di che cosa? Conseguenza di quello che dei loro comportamenti che possono avere, tipo la balaustra, che può, insomma, oppure i cori che fanno, tutte queste cose qua. Questo, un po' di educazione si può sempre insegnare in questo modo, e soprattutto sono utili, diciamo, alla comunità. Poi la seconda cosa, c'è anche da dire però che sì, gli ultra sono così, però ci sono anche i calciatori che guadagnano milioni di euro l'anno e fanno, diciamo, questo sport per uomini duri, che quando gli fai una carezza sembra che gli hai sparato dall'alto. Vabbè, cioè, allora, a quel punto possiamo anche piantare le betulle nel superato di San Siro, questo sì. Però piuttosto dimmi cosa ne pensi di questo messaggio di uno che si firma Ultra Granata. Stai dicendo un sacco di cazzate, la curva è sempre stata così e sempre lo sarà. Bene, allora gli mandiamo in un'altra curva, che ne so, gli mandiamo giù nelle curve, che ne so, in Sudafrica, da quelle parti lì magari. Gli mandiamo a fare un po' di ultra là per vedere poi quando, come succede, che gli tirano, così almeno se la smettono. Comunque, prescindere da questo, poi c'è anche da dire un'altra cosa. Per quanto riguarda invece i grandi milionari calciatori che guadagnano fior fior di milioni di euro l'anno, se si permettono di dire all'arbitro io t'ammazzo, quello che è, gli facciamo 500.000 euro di multa, e quei 500.000 euro li diamo a disposizione ai ragazzini che sono costretti a comprarsi le scarpe da calcio, i calzettini, le magliettine, eccetera eccetera, in modo che così almeno insegniamo i veri valori dello sport da quando sono piccoli e abbiamo dei mezzi a nostra disposizione. Guarda, Marco, io su questo, allora, io ripulisco il tuo pensiero, ma per quanto mi riguarda dalla demagogia, ma per il resto sono d'accordo, perché calciatore milionario è un'altra cosa che mi sa di demagogico. I calciatori prendono quello che il mercato permette loro di prendere. Però mi tengo assolutamente per buono il concetto, e cioè come accade in America, dopo questi comportamenti andiamo a toccare le tasche dei calciatori direttamente, e non le giornate di squalifica e queste cose, perché togliere un calciatore protagonista di uno spettacolo a quelli che pagano biglietti e vanno a vederlo, secondo me è un danno che si crea a terzi e che non è accettabile. Quindi io preferisco, come dice Marco della provincia di Pesaro Urbino, preferirei il concetto della multa. Andrea Mantova? Sì? Sì, ciao, mi ciao. Sentite? Sì, bene, insomma, bene, mica tanto. Abbassa la radio perché sennò non sento niente. Se non riesco a farmi sentire. No, eccomi. Io quello che voglio dire è che secondo me la situazione va risolta con una legge di Stato che regoli un attimino meglio l'accesso agli stadi e... ancora di più. Marco, Andrea, ancora di più. Cioè più regolamentata di così, cioè biglietto nominale, tessera del tifoso, tornelli, cosa vogliamo fare ancora? Cioè questo è il paese della... sai benissimo, non c'è nessun paese al mondo che ha così tante leggi come l'Italia. Sono pienamente d'accordo con te, però il problema secondo me è che andrebbero fatte delle leggi un pochino più mirate e magari cominciare a prendere in considerazione anche l'idea di ammodernare gli stadi, il famoso concetto di stadio di proprietà, e arrivare un attimino alla regolamentazione inglese, tedesca, piuttosto che francese, dove comunque anche loro si stanno adeguando a questo modello di business. Sì, allora anche qui il concetto è molto ampio, in parte corretto, cioè è vero, gli stadi di proprietà, puoi fare uno stadio in Italia e gli investitori stranieri lo sanno perfettamente, è come voler ficcare le mani in un vespaio, perché è molto difficile comprendere il nostro paese, non solo per la proliferazione delle leggi ma anche per gli usi e costumi. Quindi certamente l'unico posto normale nel 2013 in cui vedere una partita oggi credo sia lo stadio di Torino, lo stadio della Juventus, che è uno stadio come gli altri che ci sono in Europa. È chiaro che in un impianto così il delinquere è un po' più complicato. Usiamo questa parafrasi, visto che stiamo andando per parafrasi e per demagogia. 800240024, strade, poi torniamo. Buongiorno Carlo, la trasmissione tua è una favola. Tutti convocati. Discriminazione, non è territoriale, bisogna trovare un personale, secondo me è passibile di chiusura dell'impianto e forse anche del bar di fronte allo stadio. Due notizie così di campo. Per quanto riguarda la nazionale, poi so che abbiamo anche voci di Buffon. Abbiamo anche un Buffon sulla discriminazione territoriale, ragazzi? Dai, sentiamolo. Ma è chiaro che il confine è molto, molto labile fra campanilismo, sfottò e discriminazione e offesa, ecco. Per cui, come in tutti i territori minati, si rischia sempre ogni tanto di saltare per aria, no? Credo invece che il fatto che sia salito alla ribalta, ecco, un argomento simile possa, diciamo, riunire tutti i contendenti, ecco, di questa disfida, insomma, affinché si possa trovare realmente un punto d'incontro. Perché poi alla fine lo faremo solo per il bene del calcio e credo che ne valga la pena. E da come parlava Buffon, con queste interminabili pause tra una parola e l'altra, si aveva proprio l'impressione di uno che camminava tra le mine. Marco Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Ma io pensavo, non è il caso di vietare ad esempio l'entrata negli stadi, intanto incominciare dagli striscioni, dalle bandiere, prima cosa, come negli altri paesi, in Inghilterra io non ne vedo bandiere ad esempio, che così non se ne danno sulla testa. Sì, sì, lo so, però le bandiere in sé che hanno i colori della squadra che male fanno, anche a me non piacciono gli striscioni. No, fanno male perché se uno andasse in curva non vedi niente. Perché c'è la bandiera davanti che sventola. Vabbè, mi sembra marginale, Marco, sì. Comunque fare in modo, secondo me, di sciogliere questi gruppi organizzati che fanno solo danno, perché quando sono tutti assieme fanno casino. Se si disperdono nello stadio in qualche modo, sì. a due, a tre non fanno più niente. Sì, ma al di là di quello, questi gruppi organizzati, come dicevo prima, sono nella maggior parte dei casi, e Lotito lo sa benissimo, ed è, devo dire... uno dei pochissimi a denunciare, a combattere questo sistema, a provare a combattere questo sistema anziché scendere a patti anche economici, magari perché preferisce risparmiare con loro signori, preferisce questo scontro anche duro e poco vantaggioso per lui. Devo dire che Lotito è uno dei pochi o dei pochissimi, forse non so se l'unico, a cercare di disarticolare questo sistema. Al di là del disperderli 1, 2, 3, 4, il discorso vero è che ripeto, le tifoserie organizzate molto spesso sono delle associazioni a scopo di lucro, quindi c'è gente che fa i soldi con il calcio, sono tifosi di professione. Poi sulle bandiere, vabbè, mi sembra molto marginale. Adriano Teramo, buongiorno. Buongiorno Carlo, è un piacere parlare con te. Reciproco. Grazie per la convocazione. Grazie a te. Io non sono un frequentatore di stadi, io non vado mai allo stadio, mi piace il calcio, seguo in TV, però mi ha raccontato un mio amico che vivendo qui calcio a livello di Serie D, penso, non so, il Teramo, che lui si permise una volta di andare in curva con la bandiera dell'Italia per festeggiare una vittoria della propria squadra, gli fu fatta togliere dal capo ultra, dai capi ultra, e questo dovette andare pure a casa a chiedergli scusa. Questo è un tifoso che non è uno di quelli casinari, accaniti, che vanno allo stadio. Cioè, questo è il clima che si respira nelle nostre cose. Ci sono i capi bastone, come i capi mafia, come i capi quartiere. Questo più o meno penso che sì, sia, ma è così, una cosa che uno non si può permettere nemmeno di portare a bandiera l'Italia allo stadio, perché sì, magari ma guarda, o è di sinistra o è di destra, non so io che cosa sia come simbologia. Guarda, molti anni fa dicevo, quando a proposito dello stucchevole discorso delle famiglie allo stadio, cioè tu portavi negli anni 80-90 tuo figlio allo stadio, io allora ero dalla parte dei bambini, e ti dicevano guarda quella sciarpa lì, non metterla che è meglio. Quindi è sempre stato un ambiente, anzi prima era un ambiente molto peggiore di quanto non sia ora. Poi sul fatto che ha un bel pari l'ascoltatore di prima a dirmi ma non si può fare di tutta l'erba un fascio, ci sono decine di migliaia di persone in quella curva, sì, però quelle decine di migliaia di persone sono utilizzate, se vogliamo strumentalizzate, torno a ripetere, da quei signori che stanno spalle alla partita, che indirizzano i cori, che obbligano tutti gli altri a seguirli come pecore, a cantare i cori che vogliono loro. Allora, se è così, se non vogliono essere strumentalizzati, che si separino, che si dissocino, ma fisicamente, dagli autori di certi cori che non sono accettabili, diciamo, dal punto di vista sonoro, ma visto che siamo in radio. Sta parlando Guidolin, direttamente interessato alla chiusura di San Siro in occasione di Milan-Udinese, dicendo: spero che venga rivista la decisione delle porte chiuse, la norma non è giusta, non si può essere ostaggio di poche persone. Queste le parole di Guidolin. Vi stavo dicendo prima di notizie di campo, poi ci fermiamo per il GR. Ebbene, notizie di campo dicono che per quanto riguarda la nazionale, Balotelli ha dei problemi fisici, dei problemi muscolari e un piccolo guaio al ginocchio. Oggi starà a riposo, poi si vedrà se giocherà con la Danimarca oppure no. Per quanto riguarda la Roma, già si comincia a guardare, a pensare, in qualche caso a sognare Roma-Napoli, che ricordo si giocherà il venerdì sera, casomai non avete ancora saputo. Ebbene, Maicon è pronto, dunque la Roma dovrebbe andare verso la partitissima al completo. Ve le butto lì, due notizie di campo giusto per spezzare un po' il fiato. Ci fermiamo per il giornale radio, poi torniamo 800 24 00 24, fino alle 15:20 siamo con voi. Ultra milanista, stampati per denti cervelletta, anche se piccolo in parecchi casi. che l'esito di tempo dipende esclusivamente dal nostro entusiasmo. Siamo potenti, possiamo fare, se ci giri il ball, anche un golpe! Tutti convocati. Voglio leggermi un paio di messaggi al volo. 349-238-6666. Uno è questo: Carlo, tifoso juventino, così scrive. Quando andavo a San Siro con l'Ultra Patata, personaggio culto della Fossa dei Leoni, non pagavamo neanche il biglietto e la polizia all'ingresso si apriva come le acque per Mosè. I capibande esisteranno sempre. Un altro messaggio: ma avete mai provato ad andare allo stadio in mezzo agli Ultra? Se non canti quello che cantano loro, ti minacciano e ti cacciano fuori dalla curva. Leandro da Genova. Allora, c'è un'altra dichiarazione di Buffon. L'argomento, lo so, oggi dopo tre giorni è un po' decotto, però ne parla Buffon, sentiamo. Per certi aspetti chiamiamolo immortale, nel senso che dal momento in cui sta in queste condizioni psicofisiche, con la tecnica e le doti che ha lui di natura, io credo insomma sia un giocatore che possa fare la differenza in qualsiasi palcoscenico, a qualsiasi età. Avete capito che il soggetto della frase è Francesco Totti e l'oggetto è una maglia azzurra per lui. Volevo farla sentire di proposito perché adesso è in linea l'autore di un libro a cui tengo molto, se non sbaglio la terza edizione, esce domani col Gone Sportivo, La Giovane Italia 2013, sottotitolo Gli Under 19 in cui crediamo. Paolo Ghisoni da Sky, ciao. Ciao Carlo. Grazie per ritenerci molto e per la puntualità in cui ricordi la terza edizione. No, ci mancherebbe altro, però ti ho fatto sentire prima. Allora, io sono favorevole alla convocazione di Totti in nazionale, l'ho già detto molte volte, perché secondo me soprattutto a un mondiale ci devono andare quelli più bravi, quelli più forti. Non so se sei d'accordo tu, però, che appunto curi questo volume e che hai una particolare predilezione, attenzione e cura per il calcio giovanile. Ma perché no? Visto che nel 2006 ha fatto una rincorsa incredibile dopo quell'infortunio per esserci, mi sembra che, vabbè, qualcuno può dire Maligni che era forse più per domo proprio, ma perché no? Insomma, sarebbe un esempio meraviglioso dopo 8 anni, dopo un mondiale vinto, di lungimiranza e soprattutto di integrità fisica ritrovata, insomma. Esempio anche per i giovani, quindi. Sì, assolutamente. Cioè, gli esempi positivi non mancano, purtroppo devo farvi i complimenti perché avete trattato un argomento per più di un'ora, io dopo 30 secondi ho il sangue al naso, quindi faccio veramente le mie sentite congratulazioni per tutto quello che siete riusciti a dire e coinvolgere a livello radioascoltatori. Ti ringrazio. 800 24 00 24, poi continuiamo a parlare con loro. Ma a proposito dei bambini allo stadio, delle famiglie allo stadio, tu cosa ne pensi? È ora che le famiglie tornino allo stadio, l'hanno detto tutti, compreso Prandelli, ma compresi tutti, eh. Io un giorno invito Franco Piantanida a selezionare tutti quelli che dicono questa frase e io li faccio sentire. Ma prima, credo involontariamente, Gigi Pardo ha detto una cosa importante e a noi basterebbe solo copiarlo, il modello inglese. Il lato negativo della vicenda è che entrare in uno stadio inglese costa troppo. E io dico, e allora? Cioè, se la situazione è come quando eravamo bambini noi, andare allo stadio con un premio, con un sacrificio anche dal punto di vista economico da parte della famiglia, perché eravamo educati ad andare ad un premio, ad uno spettacolo, così come può essere andare al cinema, così come può essere adesso andare a un concerto con la propria figlia, e allora qual è il problema? A me fa ridere questa cosa, perché onestamente sembra quelli che si lamentano in Italia dei disservizi e di tutte le cose che non vanno, e poi vorrei vedere il 740, perché è quella la cosa. Cioè, uno si lamenta a ragion veduta perché l'ASL gli dà la visita ad esempio 30 mesi dopo, però vatti a lamentare, porta anche la dichiarazione dei redditi, così vediamo se dal punto di vista regolamentare stai a posto, sì, oppure se invece vuoi semplicemente denigrare o creare casino. Bisogna essere nella situazione adeguata. Gli stadi, entrare in uno stadio bello costa tanto. Perfetto, è come andare in una vacanza ai Caraibi. Uno se lo può permettere o non se lo può permettere. Se non se lo può permettere, probabilmente sospirerà al momento di poterci andare con il proprio papà, con la propria mamma, con una situazione familiare di contorno, e quando succederà probabilmente capirà, come succedeva sottoscritto 30 anni fa, che è veramente una festa e bisogna godersela fino all'ultimo istante. Fin quando noi diamo i biglietti a questa gentaglia per entrare e fare i propri porci comodi, succederà sempre questa cosa, ma la chiave è presto fatta. Il problema è che loro hanno gli stadi, noi no, e da qui a quando li avremo sarà la Juventus lunga, se l'è fatto lo stadio, sì, però uno, Fabio, sì. e scusami Carlo, e mi sembra che sia sempre pieno, sì, no sicuro, ma infatti uno è. Io sostengo che quello è l'unico posto normale, non ti dico meraviglioso, straordinario, non uso questi aggettivi, dico l'unico posto normale nel 2013 in Italia in cui vedere il calcio, secondo me. Paolo, chi sono invece gli under 19 in cui crediamo? Quanti sono innanzitutto? Romani ce ne sono 50, è una demo sostanzialmente, sì. Perché abbiamo avuto l'orgoglio anche noi di vestire la maglia azzurra, nel senso che quest'anno dopo un paio di anni di lavoro certosino, insomma, siamo riusciti, grazie ad Antonello Valentini, a intrecciare un po' il lavoro e a creare una sorta di almanacco delle nazionali con i 50 che io, Stefano, Guido Maconi riteniamo un pochettino più promettenti. Diciamo che la federazione ci ha dato la partnership, poi la paternità del fatto che questi ragazzi arrivino o meno ce l'assumiamo tutta noi, con appunto oneri, onori ed eventualmente anche sberlessi futuri. È una demo, aspettiamo a far uscire l'almanacco avere proprio il 10 di novembre, ma semplicemente perché la situazione sarà molto più allargata, non solo i 50, quindi 300 e passa, non abbiamo un numero fisso cui ancorarci, ma soprattutto con l'augurio che adesso la nazionale italiana under 17, under 18, visto che era mai passata di categoria, va a giocarsi questo titolo mondiale negli Emirati Arabi, con la speranza appunto il 10 di celebrare un qualcosa di importante e di essere aggiornati sul pezzo. Un'ultima cosa che ti chiedo, poi ovviamente aggiorniamo la seduta quando uscirà l'almanacco completo, sì. Ma i talenti del futuro, cioè gli under 19, cosa pensano del calcio italiano? Vogliono scappare o vogliono restare? Secondo me adesso il pensierino a prendere la strada di Verratti la fanno, insomma. Ma non tanto, guarda, adesso vedevo anche le convocazioni under 21, c'è questo grifo dell'Hoffenheim che ha chiamato Gigi Di Biagio, c'è Battocchio che è al Watford, c'è Rozzi che è un giocatore della primavera della Lazio che è andato per trovare minutaggio al Real B, che è la squadra B del Real. Io credo che questa sia veramente la chiave. Noi siamo spesso stati accusati di essere mammoni, no? di non voler andare in giro, però così come per l'Europa si è varato il progetto Erasmus a livello universitario 20 anni fa, credo che adesso a livello calcistico siamo molto vicini all'Erasmus del pallone, perché qui onestamente c'è poco spazio, molte parole, poca volontà ancora di dare una maglia per tutta quella serie di becerume anche dal punto di vista esterofilo ad ogni costo, lo sai, è una cosa che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato tantissime volte, cioè presentare un giocatore che si chiama Igno o come vogliamo trovare su fisso esterofilo a tutti i costi, va bene, presentarlo come ha detto Bianchetti adesso, che è il centrale della difesa under 21, se mi chiamassi Bianchettini o Bianchettini o Bianchettino giocherei titolare probabilmente in qualsiasi squadra italiana. Quindi credo che alla fine, sì, rispondendo alla tua domanda, il pensiero per andare a farsi un giro in Europa, guadagnare e giocare, essere anche apprezzati, ce lo stanno facendo in tanti. Può essere una buona idea. Grazie Paolo, ci sentiamo presto. A te, ciao. Carlo. Allora, voglio leggere prima di tornare agli ascoltatori, ma poi voglio farvi sentire anche una voce polemica relativa al basket. Ieri si è giocata la Supercoppa, Siena ha, tanto per cambiare, vinto. Però c'è una voce molto polemica di Daniel Hackett, la sentiamo dopo. Voglio leggervi questo sms. Ex Ultra, Fossa dei Leoni, 20 anni di militanza attiva, una diffida, ho 41 anni. Queste non sono medaglie, caro Stefano. Però, 41 anni, il mio gruppo si è sciolto esattamente per le stesse logiche per le quali tu, signor Genta, sostieni non dovrebbero esistere. Ho smesso di andare a San Siro dal momento che il gruppo più numeroso e forse tra i più storici relativi al fenomeno ha preso coscienza che i soldi erano più importanti della vecchia mentalità ultra. Da fuori, da 7 anni, hai totalmente ragione. Io non voglio aver ragione, semplicemente questo è il mio pensiero. Poi, se raccolgo delle testimonianze di questo tipo, il mio pensiero ha delle basi diverse. Allora, via. Ma tu ami più me o il Milan? Ma plamotti, ti fiamo i paracone adesso. Che me ne frega di Milan, dell'Inter, della Juventus? E quando sono con te, in Milan e i calci non mi passa neanche parlando di gamma di cervello, neanche per la testa, ma neanche qui per il coppino e per l'orecchio. I giocatori del Cagliari si sono accalcati attorno all'arbitro, che però è irremovibile. Ecco Jordan che assesta il pallone sul dischetto, un momento. Prende la rincorsa e un momento. Gol! Giorgio Pesaro Urbino. Carlo, scusi, ridevo per abbassanguolo. Sì, in effetti sì. Buongiorno. Buongiorno Carlo, io la conosco per il basket, quindi amo il calcio, ma io lei l'amo molto per il basket, perché è un profondo intenditore. Essendo pesarese, con me mi trovo bene, ecco, con lei. Di conseguenza volevo parlare di Hackett. Non so che cosa da dire, perché lei mi ha annunciato che ha fatto una dichiarazione. Vuole sentirlo? Grazie. Allora, la storia è questa: Petrucci, presidente della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, ha criticato Hackett perché non è andato agli europei, in compenso ha fatto la preparazione e ha giocato in amichevoli con Siena. Le dichiarazioni di Petrucci, quelle di Hackett ieri sera sono queste. È stato un 2013 pieno di soddisfazioni, lo scudetto, la Coppa Italia, adesso la Supercoppa, a consolidare quello che il lavoro che è stato fatto con tutto lo staff, il lavoro di un'intera città che ci ha sostenuto sempre anche nei momenti di difficoltà. Un applauso al nostro presidente Minucci, che ha costruito un'altra volta una squadra vincente. Un applauso agli allenatori, a questo pubblico splendido. 3 trofei per Mister Nessuno vuol dire tanto per me. Mister Nessuno al secolo, Claudio Petrucci, che risponde, Gianni Petrucci, scusate, che risponde: chi non, a queste parole, chi non indossa la maglia della nazionale non è, non può definirsi un campione. Queste le parole, siamo in chiusura, è un argomento interessante, magari Giorgio, chiedo perdono, ci sentiamo eventualmente domani e torniamo con queste dichiarazioni che sono carine, che ne dite? Franco Pentarini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, ciao. Grazie fedelissimi, oltre del giorno è il debbo, sarò breve e ciccocciso. Oggi, in occasione appunto del debbo, io dico e vi dico, in qualità di condottiere dei Brigate Rosso-Nere, che la parola d'ordine, tanto può cambiare, è sempre la stessa. Iule!